c'era. Baciami e ti bacerò, toccami e ti toccherò. Voleremo in un mondo stellato. Ti vedi lì per caso e tutto mi cambiò. Hai scombussolato tutto quanto. Mi hai fatto provare sensazioni uniche e questo effetto me lo hai dato con un tuo semplice sguardo. Amami e ti amerò, abbracciami e ti abbraccerò. Questo nuovo amore sboccerà. Baciami e ti bacerò, toccami e ti toccherò. Voleremo in un mondo stellato. La vita da queste speranze, ma non pensavo mai che tu t'accorgessi di me. Baciami e ti bacerò, toccami.